Siamo nel giorno dopo l'Epifania, il 7 gennaio, quindi vediamo questo tempo di Natale che si sta assottigliando, no? Quindi purtroppo, perché è un tempo molto bello, per mille motivi, anche e soprattutto diciamo per noi, perché possiamo meditare con più forza, forse con più grazia del cielo, il mistero dell'incarnazione di Gesù. E oggi leggiamo nella messa, o abbiamo letto, no, quella abbiamo recitato la preghiera: lo splendore della tua gloria illumini, Signore, i nostri cuori, perché attraverso le tenebre di questo mondo possiamo giungere alla luce della tua dimora. In realtà io pensavo che questa preghiera è bella, però la luce non è solo nella dimora eterna di Dio, ma col mistero dell'incarnazione noi meditiamo sul fatto, cioè crediamo che questa luce è venuta qua, no? Quindi infatti quando nel Vangelo della Messa si legge da San Matteo l'inizio del ministero di Gesù, della sua vocazione pubblica, no? Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazaret e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione ombra di morte, una luce è sorta. E da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. E percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno, guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. La sua fama si diffuse per tutta la Siria. Conducevano a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici, paralitici, ed egli li guarì. Grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. Questa terra di Galilea, che appunto Galilea delle genti, è una terra di confine, una terra dove ci stanno sì quelli che del popolo di Israele, però mescolati con gentili, con pagani, quindi una terra anche che non era molto considerata, come, e però Gesù comincia proprio da lì, come dire, dalle periferie, no? Direbbe il Papa, dagli ultimi, da quelli che non sono considerati, anche dal punto di vista della sua predicazione. E questa luce quindi è presente in mezzo al mondo, non è solo nella vita futura, no? È presente già qui, Gesù è in mezzo a noi, no? Attraverso i cristiani, attraverso la Chiesa, attraverso la sua parola, attraverso la sua grazia. Dio si è fatto uomo ed è presente in mezzo a noi. Noi meditiamo nel tempo di Natale questo mistero, e è un mistero che riempie di luce la nostra vita, la nostra giornata, la nostra settimana, il nostro mese, insomma, le nostre oscurità vengono illuminate da questa luce. E io riflettevo un po' su quello che in questo tempo è facile che succeda, in molte tradizioni succedono, del fatto di scambiarsi regali. Il regalo un po' è aspettato, un po' è anche a volte anche richiesto, no? Comunque è sempre una sorpresa, no? Viene impacchettato, per cui a un certo punto c'è sempre la sorpresa di vedere che cosa c'è dentro questo pacchetto, e a volte la sorpresa sorprende perché è una cosa che non ci aspettavamo. E poi siamo contenti quando magari è stato indovinato un nostro gusto, e un nostro desiderio a volte è stato indovinato. magari non l'avevano nemmeno espresso. E quindi e normalmente questa, cioè la sorpresa fa piacere, no? È una... Ieri passavo nella zona dove abitano i miei genitori e io ho fatto una sorpresa, ho detto telefono per dire che arrivo per vedere se sono in casa, ma no, va, arriviamo fin sotto il portone. E ho suonato ed effettivamente ecco la dimensione della sorpresa, questa volta è andata bene, nel senso che erano in casa, era facile immaginare così, col freddo che fa, e poi era metà pomeriggio, quindi ecco la sorpresa, no? Poi oggi mi hanno chiesto di fare una meditazione, ecco, così a sorpresa, no? Per una persona che questa era aspettata, ma quella precedente era sorpresa. E allora riflettevo su questa, su questo fatto, forse, ecco, diciamo, non so, mi immagino che nella forse è più gradito nel mondo femminile, cioè la sorpresa, che in quello maschile, ma comunque è, ma forse per la sensibilità delle donne che sono più capaci di cogliere l'amore che c'è dietro alle cose, no? Non so, comunque in ogni caso questo direte voi, ma in ogni caso questo io ho provato a fare una teologia della sorpresa, nel senso una piccola riflessione teologica sulla o scritturistica, e in effetti ho pensato, guarda un po', cioè il Natale è una sorpresa nella sua, l'incarnazione di Dio è una sorpresa, perché per quanto sia stato preparato nell'Antico Testamento, cioè quindi dopo ci pensiamo, diciamo, ah sì, è vero, ah effettivamente, no? No, il Messia era aspettato, no? Cioè questo sì, ma che come è avvenuto questo? Beh, che il Messia fosse addirittura Dio che al suo interno ha il Figlio e ha l'amore che è lo Spirito Santo tra il Padre e il Figlio, e che decide che il Figlio diventi un figlio dell'uomo, che si incarni da donna, che nasca da donna e che venga ad abitare in mezzo a noi, questa è una sorpresa assoluta, no? Forse per questo che noi, che ci piace la sorpresa, che la sorpresa d'amore evidentemente, no? Che quindi festeggiamo anche questo evento con i regali, nel senso che esprimiamo con un simbolo quello che è stato il grande regalo di Dio che si fa uomo. In effetti quando leggiamo i Vangeli dell'infanzia ci rendiamo conto che la dimensione della sorpresa è molto presente, no? Soprattutto in San Luca, che fin dall'inizio, no? Tanto che poi il buon Zaccaria non la prende bene, no? Non riesce a reagire con la fede di fronte alla sorpresa di quell'annuncio di Gabriele, che le sue preghiere erano state ascoltate, e non ci crede, non riesce ad avere l'atteggiamento giusto di fronte a questa sorpresa, e quindi poi, anche se il regalo del Figlio arriva lo stesso, no? Però rimane quel suo mutismo più che altro per aiutare lui a comprendere che la parola, il parlare di Dio deriva dall'accoglienza di questa sorpresa dell'incarnazione, di questa sorpresa, di questa consapevolezza che lui ci guarda sempre, anche quando noi preghiamo e non sappiamo, cioè non abbiamo un riscontro, ecco, dell'ascolto della nostra preghiera. Lui guarda sempre le nostre preghiere, le nostre azioni, e ci dà al momento giusto quello di cui abbiamo bisogno. E naturalmente è una sorpresa che questo stesso angelo Gabriele arrivi da Maria al sesto mese dell'attesa di Elisabetta, perché non per quanto possiamo chiederle a Maria, ecco, tu Maria fosti preparata, no? Dall'Immacolata, lo sappiamo adesso, no? Nella fede della Chiesa, dall'Immacolata Concezione, ecco, c'è una tradizione che dice che fin da bambina si dona al Signore, da questi doni speciali ricevuti dal Signore, questa pienezza della sua vocazione per lei è una sorpresa. Rallegati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata, si domandava che senso avesse saputo come questo. E poi dopo questa sorpresa viene spiegata, no? Finché ottiene da lei una risposta di fede e di donazione. Ecco, la serva del Signore avvenga per me secondo la tua parola. E da lì è tutto un susseguirsi di questa sorpresa che si manifesta ad altri, no? La prima a sorprendersi è Elisabetta, e si sorprende di questa esultanza del bambino che sta aspettando nel suo grembo quando Maria va a trovarla, quando Maria la saluta, no? Quando arriva nella sua casa e la saluta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore gli ha detto. Quindi è una sorpresa per Elisabetta l'arrivo di Maiella e la sua maternità divina, possiamo dire così, il suo essere la madre del suo Signore, ed è una sorpresa per Maria che il Signore si manifesti così, che lo Spirito Santo parli in questo modo, anche solo con la sua presenza, con il suo saluto, con la sua voce, e quindi che Elisabetta abbia saputo tutto, illuminata anche lei dallo Spirito Santo, e quindi canta la sua preghiera che noi oggi chiamiamo il Magnificat, no? L'anima mia magnifica il Signore. E il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore perché ha guardato l'umiltà della sua serva. E poi le sorprese non sono finite per Maria, per Giuseppe e per tutto il popolo, diciamo così, no? Anche se il popolo ci arriva più tardi nel Vangelo che leggiamo oggi, quando Gesù è adulto e c'è Teofania nel battesimo, insomma, e comincia a manifestarsi secondo Giovanni nelle nozze di Cana. La sorpresa dell'incarnazione del Figlio di Dio arriva dopo, no? Per gli altri, per il popolo, però per questo piccolo gruppo di persone che sono i privilegiati, e tutti i fatti dell'infanzia del Signore sono una sorpresa, no? Una sorpresa dell'amore. E quindi quando nasce Giovanni il Battista si sorprendono di questo nome che non è nelle parentele, quindi che rompe la tradizione, ma Zaccaria lo conferma e poi lui stesso profetizza con quelle parole, no? Benedetto il Signore Dio di Israele perché ha visitato e redento il suo popolo. E grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio ci visiterà un sole che sorge dall'alto, e profetizza la nascita del Verbo di Dio. E poi quando accade la nascita di Gesù e gli angeli avvisano i pastori vanno a trovare e trovano il bambino nella mangiatoia e raccontano, trovano Maria e Giuseppe il bambino, no? E raccontano quello che è successo a loro, quello che gli hanno detto gli angeli, e gli stessi Maria e Giuseppe si sorprendono, si stupirono delle cose dette dai pastori, no? E quindi Maria custodisce queste cose nel suo cuore e le medita. Dopo sono sorpresi e stupiti anche di quello che accade a Gerusalemme, quando lo portano al Tempio per presentarlo al Signore, nelle parole che dice Simeone, il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. E poi, ecco, la profetessa Anna, si sorprendono anche più avanti di quello che Gesù fa, ecco, di questa, da adolescente, di questa, questa rimanere nel Tempio e parlare del Signore. Per cui in effetti tutti, vedete, tutti i misteri della gioia che racconta San Luca sono misteri della sorpresa. Possiamo anche dire che in un certo senso anche in, questi Vangeli, in questo Vangelo di San Luca c'è anche la sorpresa delle difficoltà, difficoltà che sono un po' sotto traccia, un po', e nel racconto di Maria sono un po' non evidenziate tanto, a Betlemme che non trovano posto, e poi questa profezia di Simeone, che dice alla Madonna, alla Maria, ecco egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Per cui questa dimensione anche, possiamo dire così, negativa dell'amore, cioè questa dimensione della sofferenza che su questa terra, nella storia dell'umanità, degli uomini, è sempre presente, misteriosamente presente, anche nella vita di Gesù, anche questa sorprende un po', no? Forse questo lo esprime di più il Vangelo di Matteo, no? Il Vangelo di Matteo, che esprime forse di più l'aspetto sorprendente anche in senso negativo. Giuseppe che soffre per questa inaspettata notizia e non sa che cosa fare, no? Questa è una realtà che anche a noi colpisce, no? A volte ci può anche un po' scandalizzare, cioè nel senso metterci proprio una difficoltà, come è possibile che sia così, no? Come è possibile che in tanta gioia si mescoli anche l'amarezza, l'incomprensione, la difficoltà, la cosa che non capiamo, no? E in effetti è un problema, no? È un mistero, no? E Giuseppe, nell'Evangelo dell'infanzia di Matteo, secondo me è un po' più presente, e quando Giuseppe vede che lei è incinta e non lo sapeva e pensò di ripudiarla in segreto, e se era uomo giusto, e c'è tutta la, non ci soffermiamo adesso sulle varie interpretazioni di questo momento, no? Della storia di Maria e di Giuseppe. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore. Ci immaginiamo forse una realtà di questi sonni agitati, no? Che a volte possono capitare nella vita di tutte le persone quando ci sono problemi irrisolti, no? Problemi insoluti oppure sofferenze grandi, oppure, ecco, difficoltà nel capirsi, nelle relazioni, oppure difficoltà proprio di risolvere problemi che tolgono il sonno, no? Per cui si dorme però un po' così, no? E con i pensieri, no? Che continuano. Forse è così, è probabile che sia così. Gli apparve in sogno un angelo del Signore, gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, no? Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù, egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Però pensate anche, quindi, come Maria, ecco, insieme con la gioia che si esprime di più nel Vangelo di San Luca, può aver avuto la sofferenza dell'attesa, no? Anche di capire come Giuseppe avrebbe potuto risolvere questo problema e prendere la sua decisione, e come il Signore ecco, avrebbe potuto aiutarlo, avvertirlo, eh? E pensate anche come, come la visita dei magi li ha sorpresi, sia in senso positivo, no? della gioia di vedere che il Signore parlava a persone lontanissime, a persone di un'altra fede, di un'altra religione, e parlava anche attraverso i segni del cielo, no? Attraverso questa, la presenza di questa stella che appare e scompare, e come arrivano da lui adorandolo, no? Quindi ritenendolo appunto il re dei giudei, quindi gli portano in dono doni, regali, no? E loro stessi hanno una grandissima gioia, questi magi che venuti dall'Oriente, e al contempo poi vengono avvertiti in sogno di non passare da Erode, quindi anche loro intravedono così, ecco, delle difficoltà, delle tenebre che vogliono un po' nascondere o addirittura sopprimere, no, questa luce che è appena nata. E così come Giuseppe e Maria, come avranno reagito a quella, come saranno stati sorpresi, questa è una sorpresa che spaventa in senso negativo, del dover scappare per difendere questo bambino da chi lo vuole uccidere, dall'Erode che lo vuole uccidere, no? Come si alzano nella notte, come... Anche queste sono sorprese dell'amore, nel senso che per amore di questo bambino per in fondo vedono la provvidenza di Dio che lo custodisce, anche se in modo un po' drammatico, drammatico, perché loro devono scappare, devono nella notte, nel cuore della notte, no? Anche questa è una notte in cui è presente la luce di Dio incarnato, bambino, che però deve fuggire, no? Come dice San Giovanni nel suo prologo, no? Le tenebre non l'hanno accolto, no? Veniva la luce nel mondo e le tenebre non l'hanno accolto. E poi continua la sorpresa di come il Signore segue questo figlio che è lui stesso, no? Che ha voluto incarnarsi nel seno di Maria, attraverso queste vicende misteriose dell'esilio in Egitto e dell'essere richiamato per tornare, poi senz'altro loro stessi, oppure non so, in futuro la riflessione gli ha fatto ricordare che il Signore diceva dall'Egitto: ho chiamato mio figlio, no? Il profeta. Ma pensate anche la lacerazione del cuore di Maria e di Giuseppe nel sapere questa reazione terribile di Erode, no? Per cui anche questo, noi oggi nella Chiesa festeggiamo i santi innocenti e li consideriamo in paradiso, no? Martiri inconsapevoli di Gesù, hanno testimoniato col sangue e hanno in qualche modo difeso la vita del Signore, anche loro, no? Però per Maria e per Giuseppe è uno shock molto, molto forte, quindi è presente nella loro vita anche questo tipo di sorpresa di come questo amore infinito di Dio, che è presente, che si è fatto bambino nel grembo di Maria ed è stato nelle loro braccia e loro stanno difendendo, provoca, è segno di contraddizione, ecco, come diceva Simeone, quindi provoca gioia nei magi, lungo viaggio per adorarlo, regali da re, e allo stesso tempo odio di gente che lo vuole uccidere, no? Allora io penso, ecco, mi veniva in mente che una piccola scoperta semplice, che a volte si fanno delle scoperte grazie anche a un libro che mi accompagnava in una predicazione fatta recentemente, e ho scoperto che la predicazione seguiva un po' la storia delle donne che sono presenti nella vita di Gesù. Nel ritiro predicato dal 26 al 31 a Roma, e a un certo punto nel mettere l'attenzione su quella vedova, una delle donne di cui parla il Vangelo, che Gesù conosce o perlomeno di cui parla, è quella vedova che getta nel Tempio pochi spiccioli. Allora, di quella donna parla sia il Vangelo di Marco sia il Vangelo di Luca. E ecco, questa donna non può sorprendersi dell'attenzione di Gesù per lei, no? Del fatto che quel piccolo gesto sia stato così, così visto da Dio, visto da Dio incarnato, che questa donna probabilmente faceva quel gesto davanti a Dio, però al Dio di Israele che nessuno ha mai visto, che anzi, guai a, se si vedesse vuol dire che siamo morti, no? Quindi lei, cioè, quindi questo amore di Gesù per lei è presente, è scritto nel Vangelo, ma lei non lo nota. Non... Questo per noi è anche importante, perché a volte quando noi non notiamo, non ci accorgiamo di questo amore che ci sorprende, questo amore comunque è presente e ci guarda e dà valore a tutte le nostre azioni. E allora la cosa nuova per me è che nel greco di Marco e di Luca, in tutte e due le frasi di Gesù, Gesù dice, mentre noi nella traduzione leggiamo Gesù che spiega ai discepoli che questa donna ha dato più dei ricchi, perché i ricchi hanno messo il superfluo, lei invece ha dato tutto quello che aveva per vivere, no? Ce lo ricordiamo, anche se sono piccole variazioni nella traduzione, più o meno è questo, no? E lei invece nella sua miseria vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. E in verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Dobbiamo tenere presente, fra l'altro, che questa donna può essere anche una donna giovane, perché non, adesso noi abbiamo l'idea che la vita è più lunga, abbiamo più aiuti dalla scienza medica, allora noi abbiamo in mente che le vedove sono persone anziane, potrebbe essere anche una persona giovane. Senz'altro Gesù vede in questa donna anche sua madre, no? Allora, dico, il greco di Luca e il greco di Marco dicono, cioè quindi la parola di Gesù è più vicino a quello che Gesù ha detto, dice: questa donna ha gettato tutta la sua vita, e non dice tutto quanto aveva, ma dice, ha gettato nel Tempio tutta la sua vita. E... panta ton bion, oppure olon, o intera la sua vita, dice San Marco, olon ton bion, cioè per voi che sapete il greco, eh. E quindi è bello, a me pare bello, che mi pare molto suggestivo, no? Mi piacerebbe quasi che, per quanto probabilmente la traduzione vuol far capire più il senso, però è molto suggestivo che Gesù dica: guardate, quella donna ha messo nel tesoro del Tempio tutta la sua vita, eh? Quindi quel piccolo gesto ha un significato molto più grande. Quindi ecco, questo mi aiuta a pensare quanto il Signore Gesù valuta anche i nostri piccoli gesti, no? Di generosità, di carità fraterna, di aiuto. Infatti che sono nella messa di oggi, si leggeva nella prima parte quel brano della lettera di San Giovanni, in cui sempre meditando sull'incarnazione, Giovanni dice, e questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio suo, Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri secondo il precetto che ci ha dato, quindi fede e amore reciproco, no? Com'è semplice in fondo, no? La nostra fede cristiana. E poi chi crede veramente, lui più avanti dice che la fede sta in quelli che credono che Gesù Cristo è venuto nella carne. Allora costui è da Dio, chi crede che è venuto nella carne, perché già allora c'erano quelli che negavano l'incarnazione. Sembrava troppo, cioè questo Dio assolutamente trascendente, e sembrava così distante dalla materia che pure aveva creato lui, non come faceva a farsi uno di noi. Invece è proprio questa la grandezza della nostra fede, la grandezza del dono che il Signore ci ha fatto, la grandezza della sorpresa dell'amore di Dio che si fa carne, che quindi si fa bambino, che si fa uno di noi, che si fa e che prende un corpo come il nostro, e quindi con i suoi occhi corporali guarda quella vedova che mette tutta la sua vita nel tempio. Così fa anche con noi, no? ci viene vicino. È una sorpresa molto grande, una sorpresa che proprio perché è fatta nell'universo della materia che è caduco, che muore, che finisce, che porta con sé anche appunto la morte del Figlio di Dio, il suo sangue sparso per noi, che poi è la nostra salvezza, che poi risorge il corpo di Cristo, però passa attraverso anche la sorpresa dell'amore, che è un amore che si dona, un amore che muore per noi, no? Quindi io vorrei che, ecco, che la grande sorpresa dell'amore che è l'incarnazione, anche quando termina il tempo del Natale, rimanesse in noi, in me, come meditazione, e che noi ci lasciamo sorprendere sempre positivamente da questo amore, sia quando si manifesta come gioia, sia quando si manifesta come dolore, e che sappiamo leggere sempre la presenza di Gesù, quel Gesù che ci guarda, che guarda noi che cerchiamo di gettare nelle mani di Dio tutta la nostra vita.